pulita, faccia pulita. Trasformano ciò che toccano in merda, pure la vita. Ci narcotizzano con bon ton e pom pom. Noi li seguiamo come al cinema col popcorn. Nebbia e pioggia sulle terre del nord, vibrazioni negative come un pezzo dei corn. Il bavero alzato, sguardo svuotato. Stringo i denti tra i perdenti perché mi hanno incastrato. Coesione sociale, coscienza globale. Insegnanti di morale sono tanti e sanno parlare. Il presidente appeso per le gambe come un pollo. Sarà uno stronzo in meno dentro questo tracollo. E quando cazzo mollo, suono pesante, suono ignorante, peggioro costante. Tutta questa truffa è di sicuro più grande. E a me non rimane che un istante. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, le libertà, le libertà. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, perdo come, perdo come. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, le libertà, le libertà. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, perdo come il ghiaccio. Avanti, stringendo anche la mano più punta, animata, personaggi disumani sta giungla. Passaggi sotterranei dove scrocchi una giunta. Inferno più affollato che nell'ora di punta. Inquisizione fasulla, s'accoppia con la trans più fuccia. Cerchi logica, rinuncia. Traduco tutto questo in puncia, puncia. Langato, rima potente come un nunciato. Volevi cambiare il mondo ma ci hai rinunciato. Credevi in un posto dolce come il cioccolato. Questa piaga infetta e ti sei già ammalato. Proprio questo è il risultato. Una statuetta dritta sulla faccia. Preso, bentornato sul pianeta Terra. Offeso, scorre sangue vero, mo senti il peso. Sempre acceso, clima teso, disteso. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, le libertà, le libertà. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, perdo come, perdo come. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, le libertà, le libertà. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, perdo come il ghiaccio. In giacca, cravatta, capelli con la lacca, ma dentro le mutande quell'affare mi si spacca. Stancato da tutte le promesse che in risacca continuano a tornarmi addosso e qua va tutto in vacca. Cacca, senti che profumo inneggia il cambiamento mentre parli al tuo raduno. Soltanto discorsi messi in fila ad uno, soltanto con parole non spodesterai nessuno. Ognuno protesta da nord a sud, solo chiacchiere a rincorrersi manco fosse un loop. Butti il dito contro perché non ne puoi più, ma sei bravo a ribellarti solamente su Facebook. E tutto è ricondotto al clima d'odio, intanto fanno pugni per salire sul podio. Balle che formano il tuo patrimonio, tra voi questo stivale non c'è matrimonio. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, le libertà, le libertà. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, perdo come, perdo come. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, le libertà, le libertà. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, perdo come il ghiaccio. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, le libertà, le libertà. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, perdo come, perdo come. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, le libertà, le libertà. Dove immaginazione, dove immaginazione, dove immaginazione, perdo come il ghiaccio.